sa cantare. Uno canta per divertirsi e boh, basta. Già lo so, già. Il problema è che da quella cosa lì sto imparando a cantare. Ma ti metti tutte le sere? Tutte le sere no, ma già mi sto mettendo. Ma che sa la canta? Sì. Ciao, vabbè, ti diverti, poi ti passi il tempo così. Anche io ne ho due, tre di karaoke addirittura. Hai cantato con Marina, Sara? Ah, con Marina ha cantato. Tanto c'ho il video, te lo mando, lo vuoi? Se vuoi! State parlando in due, cazzo, cos'altro? Aspetta, se vuoi! Oh, Santiago 1 di QRM stanotte, minchia! Lo voglio anch'io! Ma che tu sei basso il QRM? No, io non ne ho niente, tutto qua QRM non vi nego che Santiago. Santiago 1 ne ho. Io proprio poco, proprio quasi zero. No, io sono sempre stato basso. Sì, ma questa antenna che c'ho io non è prende QRM, tu, capito? Ma neanche la mia, la verità, è molto bassa di QRM. Forse perché non è radiale, non lo so. E tu prova a farmi cantare il vagabondo, vedi? Dei nomadi, a ver se te la posso bere. È facile quella. Cantami qualche una dei Morandi. Morandi le devo studiare. Non l'ho mai cantata. Fammi cantare una canzone di Bobby Solo, vedi? Dei moda, ho detto, non di Gianni Morandi. Dei moda. Ah, è moda, io non c'ho quelle. Da. Ci posso provare, però io non ho quel tipo di cose, di voce lì, capito? Tu fammi cantare una canzone di Bobby Solo, vedi? Una lacrima sul viso. Cantala, chi lo chi sei? No, ma non te la aggantano. Una lacrima sul viso. Aiuto. Ah, esetta. Aspetta un attimo. No, viso. Quindi se devi cantare metto le cuffie. Nel culo mi sei buono, adesso basta. Ecco, spegni. Lui la cantava con sentimento, una lacrima sul viso. Vabbè, invece con un microfono al paracchino non lo so, ma con un microfono in corso ti appunti, beh. Spegniamo, la perfetta, basta. Sì, quello sì. Ma è meglio la voce naturale. E poi ci sono canzoni che si addicono a una persona e canzoni che si addicono a un'altra. Non è che tu puoi fare tutte le canzoni. In culo appunto via, attaccare gli stacca. Che gente coraggiosa che esiste. No, ma non mi sono portati, stanno qui. Vabbè. E lo rende al baracchino lui, bisognerebbe sentirlo. Ho registrato dal vivo. Che il baracchino te la distorce la voce. Sì, beh, ci vorrebbe un microfono normale, perché l'amplificato purtroppo amplifica di più e non si sente bene. Vabbè, come hai detto tu, basta che si diverte, poi chi è più bravo, chi è meno bravo, ma che cavolo se ne frega, mica stai facendo una gara o che cosa, ma non ce ne può fregare nemmeno. Meno me. Una gottura. Sembra un po' Barutti canta. Io c'ho la voce così, vabbè, da gottura va via, ma mi diano le lettere un po' gudoppie, però ti aggiungo cantando romantessi. Allora, dovresti, diciamo il tono ci siamo, però dovresti migliorare magari per quanto riguarda la tonalità. Devi andare a tono insieme alla base, capito? Antonio, che tu fai diciamo un po' è seccato, vabbè, la devi riprovare più volte, come io tutte le canzoni, la prima magari la canto un po' così, poi la seconda migliore, così, più la canti più migliori. Se ti piace un buon tipo di canzone la devi cantare più volte, però deve essere, non devi andare più veloce dalla base. Allora, il problema era questo, il problema è che io stavo cantando, lo sai cazzo che ero un mezzo gotto, quindi non è che mi sia uscita perfettamente, certo che se te la ricanto adesso te la faccio bene, cazzo non lo vedi a un'acca. Era l'inghilterra tu, Già lo sai tutto questo che mi ha giovito. Sì, santo. Io già non arrivo a Filippini, mi aggiungo. Ogni tanto ci possono dare a radio, va. Cazzo mi aggarore. Mi pare che tu poco spesso non vai. La volta che abbiamo cantato il baracchino, che avevamo fatto il karaoke al baracchino a Capodanno. Tu le mosse. Ah, eccomi. Ciao, Benietto. Ti la metti la voce di Capodanno che avevo cantato il baracchino, avevo fatto un karaoke, che io non iniziamo la canzone e l'altro la continuavo. La cultura era. La canzone lì era la prima volta che la cantavo. L'altra volta ho fatto vagabondo, ma l'ho fatta perfetta. Ce l'ho fatta molto bene, l'ho fatta. Io quando canto, quando ho cantato l'altro giorno, ero così, non ero tanto sincero, no. Io dico che se te la faccio che sono tranquillo, era in giostra. E anche tutte le cuffie prima di scappare. Vai, zero stazionario. Luca, ci sei ancora? Sì, aspetta, mi ha dato un messaggio. Ammazza, un baracchino, tutto a fondo scala. Provate a parlare, ma se più sei il volume, vabbè. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Ok, adesso l'ho abbassato. Cazzo, Luca l'ho fatto un giorno, la bagaglia a 2. Sempre lo stesso microfono, come abbiamo messo? Io mi sto esercitando a casa a cantare, perché è una cosa che mi sta piacendo, capito? E magari fai cantante invece che fare service, fai cantante. Sì, vabbè, un po' di cose ce lo devi avere. Se ti piace la musica, devi saper fare qualcosa. Vabbè. Io per il momento canto in casa e fuori mi perdono a cantare, ma già qualche canzone la so fare. No, io già Se mi capita già adesso che mi sono preso un po' più di coraggio, però bisogna capire anche che io prima non cantavo mai, non cantavo. E sto imparando a cantare adesso. Piano piano le cose. Canta che ti passa la paura. Adesso man mano che sto facendo le canzoni sto sempre migliorando. Niente ne ci vuole una nuova, ma io ti diverti, anche io mi diverto quando io ho comprato il microfono professionale della Shure per cantare. 90 euro hai pagato, no? 100 euro. E quant'altro di così. Shure è buono. Certo che è buono, già lo so quanto vuoi, sai. Che regala? Me l'ho regalato alla mia compagna al compleanno. Papà, e prima o poi quando ci avrò i soldi me lo compro pure io. E altro è, diciamo che è un abisso da quello che c'era a quello che c'è adesso. Beh, è normale, il microfono Shure è uno tra i migliori, migliora anche la cosa, ma papà farlo accompagnatore ha un conto, ma farlo tutti il karaoke, e due sono questi buoni ghiccio, no? Sì, così ti caraseggiare tutto. Appunto. Ma ora no, ve l'ho regalata a compleanno. Sapevo cosa regalare, tanto sempre profumi, questo e quell'altro, ho regalato col microfono, so che gli è piaciuto un bel. Che l'hai preparato, la mia musica? No, l'ho preso tutto da internet. Capito. C'è quello di Alghero che è bravo, sono persone in gamba. La Melis. No, Alghero io ho sentito uno che fa musica negli anni 80, mi piace un bel alle muraglie. In un bar tutti i sabati e fa musica anni 80, ma è bravissimo, è già di una certa età, avrà 55 anni, però è bravo come dici. No, ti stavo dicendo, vendendo gli strumenti musicali, se vuoi qualcosa, anche lì ad Alghero, in via Loprasso, vicino ai giardini, lo sai dove? Ecco, li trattano bene, la verità. Vabbè, io so dove sono i giardini, non so dove questo rinuncio, ma trova non ci vuole nulla. E c'era anche, qual è? C'ero avanti Alghero. Ah, è K, già lo sai, comunque se ti sei qualcosa di strumentazione lì, già sono molto, se no a Sassari, vabbè capisco che tipo tre me musica, ecco, non sono male, ma quello di Alghero, se sarebbe qua a Sassari farebbe 4-0. No, io vado via 4 novembre. 4 novembre, capo, chi tu? Quello dove avevate comprato quel subwoofer, te lo ricordo. Ah sì, e anche lui già le prende queste cose. Io ho comprato le cuffie Sennheiser, quelle che ho ancora addosso, dopo tanti anni. Cioè queste cuffie Sennheiser le avevo pagate, mi ricordo, sull'ottantina di euro. Però cazzo si sente che è una belletta, la musica la senti tutti gli effetti proprio bene. Proprio forti, cavolo, bellissimo come suono. Anche al bar, io l'ho messo al baracchino, ma sono sprecato. Lo so. Guarda, come cuffie buone sono queste Sennheiser, anche le Bose sono buone. Te ricordi il microfono della Sennheiser? Quello lungo che usavano negli anni 80, 70. No, non ce l'ho presente anche tu. Le Sennheiser sono buonissime, sono quelle che usano i vicini. Quella è il condensatore. Non ve la c'è presente, altro adesso, Luca. Avanti, Luca. Eia. Andiamo. Che? Oh, c'è caldo, Se oggi ha fatto caldo, cavolo. Io sono malato. Non sono con il dentista, stamattina già era tranquillo. Ma sei andato? Dal dentista, era tranquillo, non c'era caldo. Chi sai? Però dal dentista sei andato. Vabbè, sempre io vado. Ma controllo? No, pulizia. Fotopaghi già? Non lo so, però mi sta ancora facendo tutte lavoro. Quindi sta pure il nutro tempo in mezzo di parlare che me ne deve lucidare. Ma sempre lo stesso? Sì, sì, sempre lo stesso. Capito. Io devo andare il 16 settembre. Ma non è finita ancora? No. Non abbiamo ancora. Ma tende a me scimpia. A settembre, carico mediato. Ah, ho capito. Cioè, quelli che ti mette nel giorno stesso. Esatto. No, a me mi ha fatto aspettare. Mi ha messo praticamente una protesi provvisoria, poi mi ha fatto andare quando sono guarite le ferite, tutto quanto mi ha messo quelli fissi. Vabbè, carico immediato, poi non posso mangiare roba dura, no? Mangerò quello che posso mangiare, tipo brodino, cose così. Sai cos'è una buona? Io mangiavo la crema di funghi porcini e poco è buona. La? La crema di funghi porcini e poco è buona, quella della quinoa. E adesso vediamo già. Vediamo a settembre. Funghi porcini. Chi è? Chi è? Io sono. Mi sembra la voce di Giuseppe Tornado. No, sono io, sono io. Perché sempre nella voce di Russo? C'è la mia voce sempre. Perché mi sono avvicinato un po' di più. È cambiata lì. Benissimo. Da poco qua che c'avevo quello là, ho messo questo. Cava cava. Vabbè, con questo come mi sentite? Benissimo. Questo è il gas. Che lo facciamo riposare quello là e usiamo anche questo che anche questo ha bisogno di andare sennò uiuia anche che sta facendo il ciucuccio va mamma mia ciucuccio meglio gusto che c'è tomato di aghiaccio appunto. Se uno non lo può fare, ciucuccio lo fa il barattino. Hai capito che era tu, sì? No, so chi è. Vuole entrare, siamo qua, non è un problema. Ma come lo fate nel caso del fraticinetto o non entra? Cazzo, questo qua faccio un po' di furti. Porca maledetta, un bene ha preso. A noi non se ne ha regato però. Hai visto quel tipo che c'era al mare con noi? Quel tipo più grosso là. Cazzo, 10 kg ne ha fatto. Non dici. In chili. Allaga, e quando l'ha fatto? La settimana scorsa. Ah, di chi di poi? Sì, sì, tutti i milligrammi, i pizzi, Ce l'ha bravo, ce l'ha venduto, ce l'ha fuori, sì. No. Si, ha venduto 6 kg e gli altri sono tenuti. Papà, dov'è? In che vero, lo vuoi più buono? Chi mi dice che poi più buono, vero? Appena pigliato. No, con la manina di sorso. Eia. Quella zona si pesca bene. Io l'altro giorno sono andato, ho preso un'orata, una mattina e me la muovo. Vedi. Quando sei andato? In alto mare? No, a casa tu. A spiaggia? E allora? È buono allora. Come mai? Dice che di solito si pesca con l'acqua più alta. Basta lanciare, scusa, se uno lancia vale l'acqua alta, se uno c'ha un po' di lancio. Allora già andava. No, anche in Kiwi che andò avanti, è sempre bascia e leva. No, io sono andato al settimo però, al settimo picco. E lì è più alta, Beh, ti ricordi mi avevi trovato già, stavi passeggiando. Eia, tu vai sempre lì tu, sì. Eia, alla marina. Comunque, quella bambina di Luana è morta, poverina. E mi dispiace. Ma quale? Quella che è caduta a terra? Allora, Oh, guarda, c'è. È un attimo, ieri ero a Porto Torres al Cristallo, stavamo bevendo con un amico. Adesso sentiamo queste urla, ragazzi, questa bambina, questo bambino, cioè, è scappato dalla madre, ragazzi, ha girato un rumore sotto la macchina, ha fatto in tempo a frenare. Ma la mamma ha preso e l'ha sgridato, lui l'ha sgridata a Eda che non vira via mamma, se no non era fuggito. Quindi il padre ha detto tutte cose, la madre che vuole presa a voce, il bambino, poverino, già si è spaventato, da voi vi ha cambiato pure a voi. È un attimo, mamma lo diceva sempre, i bambini devono stare sotto gli occhi dei genitori. È così, già. È un attimo, è quella che è caduta con la carrozzina nel mare, nel porto, l'avete sentito? Guarda un piccione, cos'era mai bene? È scesa la carrozzina col bambino legato, si è tuffato un marinaio che aveva finito il turno, che era della Marina Militare. Cazzo, si è tuffato e è riuscito a pescare il passeggino completamente mentre stava scendendo. Ma cosa stava guardando questa questa imbecilla della mamma? A quanto pare dice che ha messo il freno, non ha funzionato, qualcosa che è andato male, l'ha messo male, che ne so. E poi punti proprio la carrozzina verso il porto, se è da giri, no, non è che la metti verso il mare. No, veramente, stanno uscendo fuori di terra. Io mezz'oretta va sempre gli occhini. Mille occhi c'ha sempre, però cosa che ci sono filandra. Soprattutto la più piccola. Tua sorella c'ha figli già, e vabbè, io sono rimasto che era ragazzi. Due bambine c'ha. Aspetta. E adesso deve essere grande, dai. È più grande di te. No, più piccola di me, io sono più umano. Più piccola? Due anni più piccola è Monica. Che ragazzo, vabbè. E comunque io ve lo ricordo che era ragazzina. Sempre due anni di differenza abbiamo. Che ragazzo, vabbè. Bisogna avere gli occhi aperti. Una volta io al mare, Marco, quando era piccolino, stavamo parlando e lui stava giocando con le formine e aveva avuto un cranio e mezzo, 4 anni, proprio andando male. E praticamente ogni tanto gli davamo uno sguardo, noi continuando a parlare, guardavamo sempre a lui, no? A un certo punto, cazzo, questo qui va a tuffarsi in acqua, lui vede che stava correndo verso l'acqua, si è alzato, si è messo a correre, si è tuffato anche lui, ho fatto tempo a cavallino da lei. Ma cosa stava negando? Ma se si è tuffato, tanto a 4 anni, si è tuffato, te la farei. Mamma mia, guarda. Per dirti, ed era controllato, cioè, gli occhi addosso ce ne avevamo sempre, basta un secondo, non mi sono furbi. Sono furbi, ti scappano, ti fanno. Una volta la cugina di un'amica mia, cazzo, la cuginetta piccola, si è camminata, l'hanno trovata dalla rotonda, mi pare che l'hanno trovata antimoppetile, e ha camminato un bel cazzo, cioè tutti cercando. Adesso ho visto che ci sono quegli scooteroni, quei pod della Chimico che c'hanno i vigili urbani, ma mi si li avete? Sì, che li ho visti. C'aveva una vigilessa l'altro giorno. Adesso se si prende qualche bambino già fanno in fretta a trovare. Devono essere organizzati, devono essere, non un macello. Ma quelli camminano sulla sabbia, i quattro camminano dappertutto. Già lo so, già. Però della Chimico non l'avrei mai comprato. Io ho avuto una moto Chimico, cazzo, che era un bidone. Vabbè. No, già sono abbastanza là. Può capitare qualcosa che non va. Kim Con sono quelle. C'è il motore Honda. No. Sono le belle truffate, però non sono Honda. Chimico non è italiano nemmeno. Non è una casa. Mi pare che sia giapponese, una cosa del genere. Camminano perché camminano, ma cazzo, c'è una difetta al motore, mi schiava l'olio con la benzina, con l'acqua, cazzo. Io glielo dicevo, mi diceva no, non è così, poi quando è scaduta la garanzia mi è grippato il motore, capito? E non l'ha avuto a fare, mi ha detto che lo dovevo pagare per rifare il motore, preciso, mi fate questa, non ho subito venduta però, cazzo, una moto vera così non l'avevo mai vista, cioè camminava, sì, proprio, però era difettosa, io gli dicevo guarda che sta mischiando l'olio con, che l'olio di scelte pizza di coso, di olio, cazzo, nel micro radiatore. C'era come si chiama olio e coso, la pizza liquido. C'era la questione della testata bruciata in quella moto, se si è bruciata. Già lo so, già le prime modelli, poi dopo gli altri li hanno fatti meglio. Ah tu, sei il cazzo di l'occasione, tutti quei giornali, tutti vedendo chimico 150, perché erano tutti difettosi, tutti quanti. Non ce n'era uno che non era difettoso di chimico 150, erano tutti con lo stesso difetto. E lui lo sapeva, bastava, mi sta comprando un'onda, e fino a che questa che costa di meno e va benissimo, la moto, se la vuoi provare te la faccio provare questa che c'ha a seconda mano. Ma la seconda mano la voglio nuova. E vabbè, ti faccio provare questa, l'ho provata, se camminava, era bella startata. Però non ho questo difetto. E lui diceva di no, lui diceva di no, alla fine in casa poi mi è scaduta la garanzia e ho grippato proprio quando la garanzia è scaduta. Lo so perché ce l'aveva anche il figlio di uno che conosco e ha fatto la matessi goggia, però i secondi modelli poi andavano bene. Non lo so, io che andava bene ho avuto Suzuki sia 150 che 400 andavano perfettamente, però chissà aveva un po' di problemi con la verità. Quei modelli lì erano, dopo andavano un po' meglio, sicuramente gli hanno erano difettose dalla casa, la qualità della testata si è bruciata, mi hanno detto a me. Ma la mia era nuova, tu comprata nuova, mi hai capito perché l'avevo comprata nuova una volta, siccome c'era il coso del livello di liquido del radiatore che si vedeva in trasparenza, no? Ed era verde all'inizio, ma poi è diventato nido questo liquido, cazzo, ma io non che te di uso, non è possibile, cazzo, poi faceva fumo la moto, cazzo, l'ho portata, no, non è niente, quello lì sicuramente ancora sta facendo il rodaggio, questo e quell'altro, insomma tu mi dici. Scuse, infatti lo chiamo truffato. Già lo so. Me l'avevo detto, poi mi pare che li hanno migliorate, non so cosa sia successo. L'hanno corretto quel difetto, non mi ricordo adesso. E non va di anni più. Tu credi che tu la moto ancora ce l'hai? No, già, aspetta un attimino, aspetta. In dubbio. A me mi ha dato un scritto di 1000 massa, poi ci ho ripensato intanto. Sto invecchiando, cos'è che ti più torno la moto. Se non te la senti più fai bene già. No, a sentirmela già me la sento, lo sai così, i dolori che mi magari mi vengono con l'aria e cose, ti vengono dolori alle gambe, a tripa. Ah cosa, senti la macchina che è più comoda. Ma la moto mi piace, facciamo le commissioni in fretta, andavo a fare i documenti, andavo in moto, da tutti i bassi e poi ti piazzava la moto, invece la macchina non è così. Già lo so, abbiate uno scooterino. No, se la abito la moto grossa, ma la moto per la strada. Mamma mia. Cosa ho fatto a questione che moto? Oppure mi piace molto la Yamaha. Già, io te lo consiglio, se non te la senti che ti vengono i dolori, lascia perdere, cioè te lo vai con una macchina piano piano e via. Io so quel consiglio, poi fai come ti vuoi due. No, ma tanto era un pensiero momentaneo, dai, è venuto lo schizzo qui, lascia perdere, mi sono chiuso in quanto pizzava la moto. Mi sono pure di trucco. Ma non è paurino, se fai dolori che ti crea problemi, cosa? Non conviene. E infatti per tuo riprendere te l'ha preso stracciato, no? Mi sono gasso scicato, va. Avanti. La mira moto. Io ho fatto, ne ho avuto una, due, tre, quattro, cinque, sì, no. Allora, ti dimmi chissà, ma la nota di tempo in quella c'è proprio, però se non te la senti, ripeto, la capigli, piano piano. No, quella l'ho venuta perché aveva fatto i suoi chilometri e l'ho venuta anche bene, c'aveva già 40.000 chilometri, quindi le moto quando sono così cominciano a fare i rulli e devi fare questo, devi fare l'altro, dici non vedi niente, allora l'ho venuta e buonanotte, sarà già che l'ha comparata. Ma guarda, c'è la moto di un amico mio che mi pare che c'ha roba di 500.000 chilometri. Che motore? L'X9 della Piaggio. Hai visto? Hai visto tu le patte graffatine, le buone rose, nuovo e sta sempre andando. L'ultima volta gliel'ho fatto io tagliando. Ma chissà molto, lui va sempre, c'ha più di 10 anni già. Sempre andendi. L'ultima volta gli aveva fatto le pompette del carburatore, gli aveva cambiato quelle che si seccano. Cazzo, ma gli ha detto il meccanico che c'era un motore eccezionale, quelli lì. E anche la mia gatta mi va via, tu. Io vi avevo dei danni. Non lo so, ma sicuramente questa garruia ha il doppio di chilometri della tua. Io andavo a lavorare, mi con la moto, facevo 4 volte al giorno, quando era in estate. In estate andavo sempre in moto, non la prendevo mai. Ma già sono moto che vanno. La mia aveva già 170. Già lo so. Andare già va. Il problema è fermarti. Ma già vanno sempre, cioè, se sono fatti bene i motori, andare in Ugnarucqua, l'X9 della Piaggio è uscito molto molto molto bene, mi è riuscito quella moto. Ma non mi piace l'estetica, a me mi piaceva il coso di Max, e quella che c'avevo io, Suzuki Burman 400. Capito. Non è male l'X9 della Piaggio, la verità. Ma sai cos'è? Che quella moto lì c'ha i pezzi che costano poco, perché le robe tagliate le fanno pagare di meno delle altre case, diciamo. Ti trovi subito i pezzi, non è problema, vai a tola lì e lasciamo. Sì. Ma guarda, in tanti anni mi pare gli ha cambiato la catena di distribuzione, tranne vabbè la cinghia usura. Una volta solo, ma c'è tanti di quei chilometri quel motore. Che cavolo, che non è ben riuscito, è forte, è proprio forte di motore, non ti dà nessun tipo di problemi, ma è una moto che ha fatto il giro del mondo. No, ma sai cosa mi stava piacendo? Il Vespone, quello che è uscito con i dischi anche dietro. Ma non stavo più facendo, mi pare, vero? Lo so. L'unica cosa che non mi piaceva di quella moto era la sella marrone. Cazzo, tanto era vea. Ma chi non l'ha ribattanita direttamente? Quello non lo so perché. Di che colore era? Marrone. La moto bianca, la sella marrone. L'ho vista bella come moto, perché c'è anche il filo a disco dietro, è bella, però questa cosa della sella marrone non mi piace più. Sì, quella adesso può cambiare, mi pare che ce l'hanno nera. Bello, l'ultima moto che stanno uscendo adesso, non so se stiano ancora facendo, però quelle che hanno fatto i Vespone, gli ultimi che hanno fatto, come facevano con la sella marrone. Ho capito. No, ma comunque, ripeto, i motori Piaggio sono buoni, cavolo. E questo mio amico, guarda, è quasi sempre in moto, la macchina la usa pochissimo, che non ripiace. Però questa moto ha fatto il giro del mondo, cioè, e ancora sta andando, ancora gli ho fatto tagliando io da poco. E pecore andando in chissà molto. Cioè allucinante qua. Cioè c'è una resistenza a quel tipo di motore che è una cosa micidiale. E anche io sono andato a Urbia, sono andato dove si fusti. E il problema è che non basta la benzina, devi rifare il rifornimento, perché consuma, diciamo, non tanto, però consuma. E con un serbatoio non ce la fai, devi rifornire di nuovo quando vai a Urbia. È normale. Però cammellando è anche... cammellando, andando in voce al vino, il casco si tira qua indietro, perché sto dicendo che cammina forte. No, cosa? Il Burgman, cazzo, ci sono ancora i tipi modelli, i primi modelli, quelli squadrati che si vedevano in giro, ci sono ancora in giro, ma anche le Vespe, quindi la Vespa 50, cazzo, e cant'anni va. Ah, sono dove è molto che tu li fai due cazzate e vanno sempre. Vanno sempre, sempre, sempre. Allora, che Luca si è dormito. Sicuramente sì. Beh, invece è giunta l'ora anche per me. E anche là ci sentiamo. Ciao Luca, se mi stai ascoltando, dai. Ciao. Ciao. Ci sentiamo già, buonanotte. Ciao ciao. Buonanotte a tutti gli ascoltoni pure. Ciao, vedete. Allucinante. Oh, manco si muove quest'arco. Buonanotte a tutti, ciao a tutti, anche gli ascoltoni. Tareci di buco. Ma stazionarie non ce n'è proprio, manco si muove. A me uno. No, da me manco si muove. Per muoverlo devo a dare potenza. Meglio così. Il problema è l'inverno per te, invece a me mi rimane stabile. No, non c'è problema. Si alzano l'inverno, anche tu me l'hai detto, che come piove un po' si alza. Ma poca roba. Si alzano quando bigliare, ma non li faccio nulla. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao dai, già, mi sono spostato, scusa, buonanotte, alla prossima, ciao a tutti. Ciao, buonanotte, buonanotte a tutti.